cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Ma che cos'è quest'estate? Eccoci di nuovo insieme per i primi approfondimenti del mattino di una lunga giornata che come sempre Radio 24 dedica ai temi di attualità. Sul tema del terremoto noi questa mattina non ci andiamo, ma gli argomenti ne avete sentito appunto tanti, quelli che stanno emergendo in queste ore, peraltro veramente a neanche distanza di una settimana dal sisma che ha colpito il centro Italia. Sono già partite delle inchieste, a quanto pare hanno già dei risvolti durissimi, pesantissimi, con tutte le indagini che sono partite sui collaudi che mancano, i lavori che non sono stati ultimati, addirittura documenti che sono spariti, e non si ha esattamente la sensazione che siano solo sotto le macerie, ma insomma sta emergendo veramente di tutto. Al setaccio, raccontano i giornali questa mattina, incariche e consulenze sui fondi del dopo terremoto del 97, ma insomma avete sentito già tutta la rassegna stampa curata da Giulia Crivelli e tutti i nostri pezzi nel corso appunto dei vari giornali radio. Ci torneremo nel corso della giornata, in questa che è un'altra peraltro giornata difficilissima, visto che ci sono anche i funerali delle vittime del Rietino ad Amatrice, dopo anche tutte le polemiche sul fatto appunto che, come sapete, inizialmente si era pensato di farli a Rieti. Detto questo, questa è la parentesi del terremoto, ma quali sono invece i temi che approfondiremo noi in questa trasmissione, in questa puntata di Ma che cos'è quest'estate? Allora, nei giorni scorsi ci sono ovviamente, per tutto lo spazio che abbiamo dato correttamente, giustamente, al terremoto, abbiamo lasciato in secondo piano tanti altri argomenti che invece hanno animato la cronaca politica, economico-finanziaria. C'è stata la riforma della pubblica amministrazione, almeno una parte molto importante che riguarda gli alti dirigenti della PA. Renzi ha varato il decreto promettendo il focus sull'attività di queste professionalità sarà concentrato sui risultati e in caso di valutazione negativa ci saranno tagli di stipendio, almeno il 30% legato agli obiettivi. Questo è solo uno dei tanti aspetti di questa riforma, molto concentrata appunto sulla valutazione e anche sulla attribuzione degli incarichi a queste professionalità. Si passerà quasi esclusivamente per concorso e quindi ci sono tanti punti interrogativi che sono stati sollevati dai diretti interessati, e non solo, perché in molti individuano anche profili molto consistenti di incostituzionalità di questo provvedimento. Ne parleremo diffusamente nella prima parte, poi andremo anche a questo argomento che oggi viene ad animare molta cronaca economica soprattutto. Avete sentito parlare di questo trattato commerciale, il TTIP, il partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, un accordo molto importante ma a questo punto anche molto difficile da realizzare, perché c'è questo tra virgolette veto tedesco che ieri peraltro l'Unione Europea ha smentito. Si andrà avanti, cercheremo di capire in che cosa consiste, quali sono i termini più importanti appunto di questo accordo di libero scambio commerciale fra Unione Europea e gli Stati Uniti, che cosa vuol dire anche per il nostro paese che le trattative vadano avanti appunto, che non siano interrotte per la nostra economia. Nell'ultima parte della trasmissione invece curioseremo anche su questa visita di Mark Zuckerberg, appunto il fondatore di Facebook, nel nostro paese. Approfitteremo peraltro di questo giro che Zuckerberg appunto ha fatto, questa sua presenza di Roma ieri, per fare un punto della situazione anche sulle cosiddette start-up innovative in Italia, che sono i giovani Zuckerberg italiani, o quantomeno ce ne sono, ne siamo sicuri. C'è creatività imprenditoriale tale da poter sfociare anche in modelli di successo che possano essere, anche se molto timidamente, paragonabili a Facebook, che è un modello unico. L'innovazione appunto del secolo è stata definita. Però vedremo anche che cosa ha fatto Zuckerberg a Roma, oltre al fatto che ha fatto questa curiosa donazione ai terremotati del centro Italia, di cui parlava anche la nostra Marta Cagnola nel corso del giornale radio. Queste le anticipazioni dei temi di questa mattina. Vi segnalo come sempre che potete intervenire, se vorrete, all'800 24 00 24 per esprimere le vostre considerazioni in diretta. In alternativa avete sempre il 349 238 6666. Ci arrivano i vostri sms, ci arrivano anche attraverso WhatsApp, per cui adesso siamo pronti a partire. A me pare che stia passando un messaggio sbagliato. E il messaggio è: nella pubblica amministrazione sei inamovibile. Se sbagli non puoi essere licenziato, non puoi essere sanzionato. Ora, il lavoro del governo, da quando si è insediato, va esattamente in direzione opposta. Cioè io credo addirittura che i requisiti per licenziare nella pubblica amministrazione dovrebbero essere più rigidi rispetto al privato. Perché? Perché nella pubblica amministrazione tu fai dei lavori, penso all'insegnante, penso al medico, penso all'infermiere, che hanno un valore sociale tale, cioè lavori per la collettività. L'avrete riconosciuta, era Marianna Madia, ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, perché abbiamo preso questo suo intervento, perché proprio della pubblica amministrazione parliamo questa mattina. Allora, incarichi a tempo, valutazione puntuale pesante dell'attività svolta con ripercussioni sullo stipendio finale, taglio dello stipendio in caso fino all'esonero, appunto in caso di inattività, dopo una gestazione complicata, come vi anticipavo poco fa, è arrivato nei giorni scorsi il primo via libera al decreto con la riforma della dirigenza pubblica, insieme ai provvedimenti su Camere di Commercio ed enti di ricerca. Naturalmente dobbiamo subito ricordare che si tratta solo di una parte della più ampia delega sulla pubblica amministrazione che ha il governo, e nella nuova architettura disegnata da questo decreto i dirigenti pubblici o gli aspiranti tali, dopo aver superato un corso o un concorso annuale, saranno inquadrati nei cosiddetti ruoli unici, un'altra novità di questo provvedimento, dedicati appunto a Stato, regioni, enti locali e autorità indipendenti. Le amministrazioni sceglieranno i loro dirigenti da questi ruoli con delle selezioni pubbliche per incarichi quadriennali rinnovabili una volta sola se il dirigente in questione ha ottenuto una valutazione positiva nello svolgimento del proprio compito. Ve l'ho anticipato un po' questo pacchetto per sommi capi, è un pacchetto su cui, come vi dicevo prima, i punti interrogativi non mancano, molti individuano profili piuttosto consistenti di incostituzionalità, mentre il premier Matteo Renzi ha parlato di un nuovo modello con un'organizzazione legata ai premi di risultato. Ma qual è la portata di questo provvedimento, cosa devono aspettarsi i cittadini e soprattutto tutta la più ampia riforma della pubblica amministrazione? A che punto è? Una bella pacchettone di argomenti di cui discutere questa mattina, intanto con il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo, che saluto. Buongiorno Davide. Buongiorno a te Debora. Grazie anche per essere con noi questa mattina. D'Angelo Rughetti, sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione, buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo il dottor Antonio Naddeo, ex capo dipartimento della funzione pubblica, attuale capo dipartimento del Ministero per gli Affari Regionali. Dottor Naddeo, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Tra l'altro devo dirvi che con il dottor Naddeo ho fatto una bella chiacchierata ieri ed è riuscito a far entrare in testa anche a me la portata e come dire, le questioni un po' più spinose di questa riforma, che spiegheremo poi col dottor Naddeo, naturalmente, a cui i dirigenti della pubblica amministrazione sono tra virgolette ostili, come è stato detto anche in molti giornali in questi giorni, perché ci sono effettivamente delle complicazioni tecniche che anche ad una testa dura come me sono entrate in testa. Detto questo, voglio partire subito con Davide Colombo. Davide, tanto per chiarire un po' i termini del tema di questa mattina ai nostri ascoltatori. La riforma della PA è un provvedimento molto più articolato e complesso, e quella di cui parliamo oggi è solo una parte. È una parte rilevante? Ma direi che è uno dei pilastri dell'intero impianto di questa riforma, perché le riforme della pubblica amministrazione poi camminano sulle spalle della dirigenza, che le deve in qualche modo portare avanti, sperimentare, applicare. Questo, in particolare questo decreto legislativo che introduce sostanzialmente un nuovo testo unico della dirigenza, ampiamente riformando l'impianto normativo del 2001, del decreto 175 del 2001, è molto importante proprio perché in qualche modo definisce uno schema totalmente nuovo, di come è concepita la dirigenza e le sue, funzioni e responsabilità, i criteri di valutazione, e soprattutto questa idea di una sorta di mercato interno della dirigenza. Questa è la ratio di questo intervento di riforma, cioè quello di idealmente immaginare una pubblica amministrazione in cui ci sia una forte mobilità, un forte interscambio di dirigenti che hanno incarichi a termine e che quindi in qualche modo, per estremizzare il concetto, possono trovarsi in una sorta di conflitto di interessi con l'amministrazione in cui lavorano, con il loro datore di lavoro pubblico, nel senso che sanno perfettamente che avranno da ora innanzi degli incarichi comunque a termine, al massimo prorogabili per 2 anni dopo i primi 4 sì. anni, e quindi in qualche modo si scatena una sorta di competition interna, che sia funzionale e virtuosa, questo bisogna vedere poi come funzionerà. Esatto, perché diciamo in termini, come dire, teorici la competizione è un fattore sempre positivo, bisogna vedere se in un contesto come quello invece può avere risultati altrettanto positivi. E quindi Davide, insomma, una portata importante, peraltro proprio nei giorni in cui c'è stato il primo compleanno dell'approvazione della delega sulla prima amministrazione, quindi è proprio anche il momento giusto per fare un bilancio rispetto a quello che è stato approvato fino a questo momento, che cosa ancora manca. Sì, direi che siamo arrivati con il Consiglio dei Ministri della scorsa settimana sostanzialmente in limine con la scadenza di questa delega. A un anno, cioè scadeva il 28 di agosto, è stato varato giusto pochi giorni prima. Sono stati varati con questo decreto legislativo, con quello di riordino delle Camere di Commercio, e diciamo siamo oltre la dozzina, 13 o 14 se non ricordo male il numero, dei decreti attuativi della legge 124 del 2015, cioè della riforma Madia. Mancano ancora importanti decreti attuativi che tra l'altro incrociano con questo sulla dirigenza, per esempio penso al riordino dei ministeri, alla riforma che riguarda la presidenza del Consiglio dei Ministri, penso al riordino delle sedi territoriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le direzioni territoriali dei ministeri, eccetera, che in qualche modo definiranno, una volta adottati questi provvedimenti, anche il nuovo campo, diciamo, la nuova configurazione, il perimetro, se vuoi, della pubblica amministrazione centrale, e quindi come si completerà con quelle regionali e locali, dentro il quale questo perimetro si muoverà la nuova dirigenza. L'ultimo provvedimento molto importante che manca, è annunciato però nel gennaio prossimo, io credo, riguarda il testo unico del pubblico impiego. Anche lì è un ulteriore tassello, si riordina l'intera materia, l'intera regulation che riguarda i dipendenti pubblici, con un passaggio che dovrebbe andare poi a coincidere con il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che è atteso da diversi anni, come tutti sappiamo. Il tuo cane forse non è d'accordo con quello che stai dicendo, Davide, adesso lo andiamo un po' a rassicurare, quindi grazie intanto per questo primo punto della situazione. Sottosegretario Rughetti, allora, qualche settimana fa lei sul Sole 24 Ore aveva detto che l'approvazione dei decreti viaggiava a ritmi soddisfacenti, adesso però era il momento di... chi è caduto? Rughetti proprio, ecco, ti pareva, va bene, adesso lo ripeschiamo, quindi questa domanda per lui me la riservo ad un secondo momento. Naddeo, allora tocca a lei raccontarci un po' come i dirigenti della PA hanno accolto e stanno accogliendo tutto questo, perché naturalmente molti hanno parlato di una vostra forte levata di scudi da parte dei cosiddetti dirigenti di prima fascia, in particolar modo da parte di alcuni direttori generali, appunto, di alcuni ministeri ostili all'idea di partecipare a partire dai prossimi incarichi a quello che possiamo ribattezzare, lo ha fatto anche Gianni Trovati del Sole 24 Ore, forse una similitudine che calza a pennello, ad un mercato che li metterebbe alla pari di tutti gli altri aspiranti a certi ruoli, perché nei ruoli unici non sono più presenti appunto le due fasce in cui oggi è articolata la dirigenza statale. Anche lei è uno di quelli che è stato protagonista di questa levata di scudi? Ma guardi, levata di scudi, parlando di direttori di prima fascia e tutto quanto, io non lo so, non è che ne ho visti tanti. Ovvio, i commenti, diciamo, tra di noi non sono stati positivi, ma penso che questo possa essere una cosa comune a tutti. Quando viene eliminato, tra virgolette, uno status, no? È un punto di arrivo poi della carriera, ovviamente non è che ci può essere... come posso dire, si possa esprimere felicità per qualunque persona che faccia qualunque tipo di lavoro, quando si apre un'incognita sul suo futuro, immagino che naturalmente levata di scudo, chiamiamola come vogliamo, è chiaro che una presa di posizione minima mi sembra il minimo sindacale, ecco, quello c'è, però proprio perché io ho avuto tanta esperienza nella pubblica amministrazione e mi sentirei di dire alcune cose che non riguardano la difesa, no, di uno status e del ruolo del dirigente di prima fascia, ma proprio in generale della carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione. Perciò, secondo me, riguarda tutti e mi soffermerei proprio su questo. E ci sono due punti, diciamo, fondamentali. Innanzitutto, dottor Naddeo, guardi, è un discorso talmente importante, voglio farlo capire talmente bene ai nostri ascoltatori, che le chiedo di ascoltare insieme la pubblicità, così almeno non la interrompo brutalmente tra un punto e l'altro. Nel frattempo abbiamo recuperato anche il sottosegretario Rughetti. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo a voi. Ma cos'è quest'estate? Allora, abbiamo interrotto il nostro ragionamento che stavamo facendo con Antonio Naddeo, ex capo dipartimento della funzione pubblica, attuale capo dipartimento per il Ministero degli Affari Regionali. Il tema al centro della nostra chiacchierata con i nostri ospiti questa mattina è la riforma della pubblica amministrazione. La delega al governo compie un anno e proprio al compimento di questo primo compleanno è stato varato nei giorni scorsi il decreto legislativo che riforma l'alta dirigenza della pubblica amministrazione. Allora, il dottor Naddeo ci stava spiegando, a prescindere dalle contestazioni che i dirigenti fanno appunto rispetto all'impianto della norma, provavamo anche a far capire ai nostri ascoltatori cosa cambierà, per esempio, dottor Naddeo, per un profilo come il suo. Quindi da questo partiamo, poi per andare ai due punti che lei diceva sono da sollevare prima di tutto, proprio per individuare i profili di criticità, almeno secondo il vostro punto di vista, della nuova norma, della riforma. Dottor Naddeo. Non è solo una riforma dell'alta dirigenza, ma della dirigenza in toto, perciò non tutta la dirigenza viene riformata con questo provvedimento. Una piccola premessa, ci sono state 4 grandi riforme della pubblica amministrazione in 23 anni, partendo da Bassanini, Frattini, Brunetta. Con il quale peraltro lei ha lavorato e ha lavorato anche con Brunetta, se non ricordo male. Io ho lavorato sia con Bassanini, Frattini, Brunetta e poi con Madia, diciamo, poi abbiamo iniziato la rotazione che è stata fatta nell'ambito della presidenza del Consiglio. E a 3 riforme, diciamo, più o meno attivamente ho partecipato. Molte volte c'è l'idea che la migliore organizzazione del lavoro si possa trovare attraverso una legge e questo secondo me è un errore che fanno parecchi politici, perché non basta scrivere una buona legge per avere una buona organizzazione del lavoro. Poi molte cose si muovono in maniera efficiente con le leggi in vigore, anche con le leggi passate, e il tutto sta sulla capacità delle persone, perciò molte volte, diciamo, questo trovare la riforma perfetta, secondo me, è un errore che fanno in generale, no, i politici, legare, diciamo, una ricerca di una efficienza ad una legge. Perciò noi abbiamo avuto 4 riforme in 23 anni, una ogni 6 anni. Consideri che vuol dire che cambiano totalmente le regole, no, per tutte le pubbliche amministrazioni più o meno ogni 5-6 anni. Perciò è una cosa abbastanza, diciamo, complicata. Poi le linee di indirizzo generali di questa riforma sono tutte condivisibili: favorire la mobilità, la valutazione, anche il mercato, come viene chiamato il mercato della dirigenza, la competizione tra dirigenza, e i 3 punti cardine di questa riforma: reclutamento, rapporto di lavoro della dirigenza e valutazione sono fondamentali, sono importanti. Secondo noi, secondo il mio modesto avviso, non sono ben collegati l'uno con l'altro. E lei diceva i commenti che ci sono stati anche da parte di Gianni Trovati sul giornale, sul Sole 24 Ore, no? Si parla di forte mobilità. In primis, la mobilità deve essere uno strumento, non deve essere un obiettivo, no? Per quanto riguarda una legge e la ricerca dell'efficienza, deve essere uno strumento che va utilizzato dalle amministrazioni, ma non è l'obiettivo principale. Cioè, l'obiettivo principale non è quello che si debba muoversi necessariamente, no, tra tutte le pubbliche amministrazioni, ma deve essere utilizzato bene dalle stesse amministrazioni e poi ovviamente, per quanto riguarda i dirigenti, anche dagli stessi dirigenti. I 2 punti, diciamo, fondamentali, quando le dico si parla di reclutamento della dirigenza, secondo me in questo provvedimento è stato scritto in maniera molto efficace come deve essere fatto il reclutamento della dirigenza. In primis si è ribadito il principio costituzionale, cioè quello che si accede alla dirigenza per concorso pubblico, ed è previsto un concorso molto, diciamo, importante, ancora più, come posso dire, ancora più difficile rispetto a quello che è la normativa in vigore. Poi è previsto tutte le regole del rapporto di lavoro della dirigenza, e qui qualche osservazione vorrei fare, e poi il sistema della valutazione, quello che lei ha detto, cioè è quello che ha detto anche la Madia all'inizio di questa trasmissione, e cioè che il dirigente deve essere valutato, cosa che viene fatto anche adesso, poi vengono valutati male, ma insomma i dirigenti vengono valutati, e poi il tutto legato ai risultati. Che cosa c'è che non lega questi 3 aspetti fondamentali che nel provvedimento comunque sono disciplinati bene, e manca però un collegamento? Io le faccio un esempio molto, molto semplice, cioè, dato che non voglio parlare dell'alta dirigenza, voglio parlare di un giovane laureato che intende intraprendere la carriera nella pubblica amministrazione. Allora, che cosa fa un giovane laureato? Fa il corso concorso. Come gli ho detto, il corso concorso è, diciamo, un concorso severo, ciò ci vorrà una preparazione adeguata per superare il corso concorso, e una volta superato il corso concorso, questo giovane laureato deve fare un anno di formazione all'interno della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e via di seguito. Fatto questo, e superato anche il corso di formazione, viene immesso nella pubblica amministrazione, in una delle pubbliche amministrazioni, come con il ruolo di funzionario, che non è il ruolo dirigenziale, ma è il ruolo esattamente precedente a quello dirigenziale. Per quanti anni questo ruolo? Per 3 anni. Mm. Perciò un giovane funzionario che ha fatto tutti questi passaggi, praticamente da quando ha iniziato il percorso, da quando ha inviato la domanda di concorso, trascorreranno circa 5 anni, no? per questo passaggio. Fatto questo, ai 3 anni deve essere valutato dall'amministrazione, e l'amministrazione, nonostante abbia fatto il concorso e tutto quanto, deve ritenere se il funzionario può svolgere l'incarico dirigenziale oppure debba rimanere nel suo incarico di funzionario per sempre. Avuto l'incarico dirigenziale, mettiamo che passi questa ulteriore prova, perciò vedi che la selezione è abbastanza... mi pare già abbastanza incisiva. Avrà il primo incarico deve durare 4 anni. No? Può essere prorogato? Può essere prorogato in caso di valutazione positiva, ecco la valutazione nell'arco di questi 4 anni, può essere prorogato solo di 2 anni, non può essere rinnovato l'incarico, può essere solo prorogato con una volontà espressa dell'amministrazione di soli 2 anni. Ma che cosa, qual è la parte negativa? Vediamo un attimo la parte negativa. Che l'amministrazione al termine dei 4 anni può decidere, no? Discrezionalmente di non rinnovare, di non prorogare l'incarico di 2 anni, ma soprattutto di non avvalersi più di quella persona, perciò rimetterla alla disponibilità del ruolo unico e fare l'interpello, fare la prova selettiva, non è proprio un vero e proprio concorso, per quel posto che viene lasciato da questo. Allora, ma se è stato appunto valutato non positivamente, perché voi contestate il fatto che venga, tra virgolette, stromesso dal suo incarico? No, ma il problema è questo, è che l'amministrazione non deve esplicitare, non deve rendere formale questa valutazione negativa. Io, quello che in qualche modo si può contestare a questo, è che va bene tutto, ma la valutazione deve essere contestata. Invece l'amministrazione, solo con l'inerzia, per farle un esempio, solo con l'inerzia, non deve comunicare niente, non deve dire: tu guarda, non sei stato bravo, non hai superato la valutazione. Non intendo, confermarti. Quando parliamo di un dirigente giovane, di un dirigente di seconda fascia, secondo la normativa vigente, no? Per un incarico, gli incarichi, di livello inferiore rimangono, non rimane più lo status di di prima fascia, però ci saranno incarichi dirigenziali, tra virgolette, di seconda fascia, e incarichi dirigenziali di prima fascia. Nessuno avrà lo status né di dirigente di prima né di dirigente, ma ricoprerà un incarico. Naddeo, devo andare ad una sintesi, quindi il tema è: terminati questi 4 anni di incarico, che sia stato valutato super positivamente o super negativamente, la pubblica amministrazione non lo dice, ma si attribuisce appunto la tra virgolette responsabilità a sua discrezionalità, dice tu non hai la conferma di questo incarico, adesso per qualunque altro impegno nella pubblica amministrazione devi riandare a concorso insieme magari ad altri giovani laureati che arriveranno esattamente con lo stesso procedimento a cui è arrivato. Ecco, quindi è questo quello che intanto a voi non convince. Su questo primo aspetto, allora, andiamo subito a sentire Rughetti, che nel frattempo abbiamo ripescato. Sottosegretario Rughetti, eccoci a lei. Immagino che abbiate già avuto una marea di tavoli di confronto su questi punti e che i dirigenti appunto della pubblica amministrazione tutte queste osservazioni ve le abbiano già fatto, però ad oggi vengono rimarcate. Che cosa rispondiamo? Ma rispondiamo intanto che questa è una riforma della dirigenza, serve per cambiare una situazione che, nonostante le varie riforme a cui faceva riferimento il dottor Naddeo, non è una situazione positiva, perché se oggi la stragrande maggioranza dei dirigenti, per non dire il 100%, raggiunge il 100% degli obiettivi e quindi prende il 100% delle indennità di risultato, se abbiamo una pubblica amministrazione che non è organizzata nel modo in cui le imprese e i cittadini si aspettano, è anche perché le riforme precedenti non hanno funzionato, quindi non è una volontà politica di mettere un nome su una riforma, quella che spinge un governo a impegnarsi su una determinata materia, ma è quella di dire la cosa che abbiamo dato che funziona, sì o no? La nostra risposta è stata no, e allora cerchiamo di trovare un modo per cercare di modificare i comportamenti, cioè lo stato dei fatti. Prima osservazione. Seconda osservazione, come la facciamo questa cosa? La facciamo non facendo una riforma per gli addetti ai lavori, cioè la riforma della pubblica amministrazione, permetto di sottolineare una differenza fra questa riforma e le altre, è una riforma che riguarda l'intero sistema pubblico, perché nasce con la legge Delrio, nasce con la legge 56 del 2014, cioè una riorganizzazione del sistema pubblico su tutto il territorio nazionale, sia per la parte che riguarda gli enti territoriali, sia per quanto riguarda gli enti della pubblica amministrazione centrale. Terzo aspetto, quali sono gli elementi che vengono coinvolti in questa riforma? Sono le funzioni, quindi si riorganizza il chi fa che cosa, attribuendo dei compiti nuovi ai comuni, altri nuovi alle regioni, togliendo qualcosa alle regioni con la riforma costituzionale, ridefinendo i rapporti fra autorità indipendenti e ministeri, si cambiano le procedure, cioè il come si fanno le cose, si mette dentro trasparenza e digitale, che sono i due elementi chiave in una era tra virgolette moderna del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, e infine si opera, infine, perché è l'elemento determinante, quindi deve essere fatto alla fine del percorso precedente, si opera sul capitale umano, e quindi riforma della dirigenza, riforma del testo unico, certo, e del pubblico impiego e contratti. Ma allora, noi, dottor Rughetti, onorevole Rughetti, lo spirito della riforma l'avete spiegata tante volte e ce l'abbiamo bene in testa anche noi, soprattutto che siamo ossessionati da tutta questa storia del furbetto del cartellino, che naturalmente ci muove anche nei confronti magari del governo con uno spirito di consenso rispetto a tutto l'impianto che avete messo in piedi. Ma per esempio, tornando appunto a questo aspetto che ci spiegava Naddeo, non era meglio valorizzare e insistere sulla aspetto della valutazione di chi è già nell'esercizio delle sue funzioni? Perché si è voluto tanto insistere su questo meccanismo della rotazione appunto dirigenziale, che magari potrebbe creare anche dei momenti di interruzione anche dell'attività della pubblica amministrazione? Adesso esagero naturalmente, se dopo 4 anni devono andare di nuovo a concorso una pletora di dirigenti vanno, che però, non vanno a concorso, no? Cioè, questa è una riforma, quella di dirigenza, che si basa sull'opportunità, cioè si dà un'opportunità che è in grado di conquistarsela, quindi rompe una logica ereditaria, no? Cioè, rompe una logica in base alla quale tu continui a fare quello che hai fatto sempre perché il tuo incarico è intangibile. Ma se questa bene, professionalità ha lavorato molto bene e magari appunto, si rischia Avrà un rinnovo dell'incarico di 2 anni, dopodiché si farà un nuovo interpello, che non è un nuovo concorso, cioè l'amministrazione metterà a bando quel posto, ci saranno più candidati, una commissione valuterà, ma la commissione valuterà su dei criteri oggettivi. Dentro questo criterio oggettivo c'è la valutazione che il dirigente ha riportato negli incarichi precedenti e la sua esperienza. È chiaro che se uno ha fatto un lavoro bene per 6 anni e vuole ricandidarsi a ricoprire quel posto, io non penso che la commissione andrà lì a dirgli no, tu non puoi andarci perché il criterio della rotazione prevale sul criterio della competenza e dell'esperienza. Assolutamente no, è una verifica che faremo fra 6 anni. Cosa diversa è dire, quello che molti dirigenti ci hanno detto, non potete mettere sullo stesso livello un dirigente di prima fascia, che sono 15 anni o 20 anni che ricoprono un carico, con un dirigente della regione Marche che fanno la stessa cosa, mettiamo, sono 2 ragionieri che si occupano delle stesse materie, che hanno lo stesso percorso formativo, che hanno fatto lo stesso master, magari la stessa laurea e lo stesso corso di laurea. Uno può essere incaricato di avere delle massime responsabilità nella pubblica amministrazione centrale, all'altro oggi questo non gli è consentito. Noi pensiamo che mettere tutte e due nelle condizioni di raggiungere il massimo, ecco perché l'opportunità, sia un vantaggio per entrambi, e sia una forma concreta di applicazione della parità sostanziale che la nostra Costituzione riconosce a tutti da un lato, ma dall'altro sia un'opportunità per la pubblica amministrazione. Cioè, io pubblica amministrazione voglio avere la possibilità di scegliere il meglio, e questo meglio lo voglio selezionare, formare, valutare nel tempo, e voglio con questo meglio offrire servizi ai miei cittadini. Oggi questa opportunità mi viene limitata da una serie di norme, da una serie di regole, molte volte date dalle stesse persone che poi devono applicarle, che limitano agli enti la possibilità di potersi vedere meglio. Faccio proprio un esempio concreto, così almeno le persone ci capiscono. Non c'è azienda al mondo che, quando deve ricoprire l'incarico massimo apicale al suo interno, pesca soltanto dentro i dirigenti che ha al suo interno. Non esiste al mondo. Tutte le aziende, quando devono scegliere il meglio, cercano di avere la possibilità di un'ampia scelta. Allora, noi questo vogliamo riportare dentro la pubblica amministrazione salvaguardando, certo, la Costituzione. Chiarissimo. Cioè, che prima si fa il concorso, però il concorso ti dà diritto ad un'opportunità, non ti dà diritto ad un posto. Volevo sentire un commento del collega Davide Colombo. Che cosa ne pensi di questo parallelo fatto tra pubblico e privato? E poi ti chiedo anche un'altra cosa, Davide, perché vedo che molti ascoltatori ce lo stanno sollevando. Un'ascoltatrice ci chiede se la riforma della pubblica amministrazione, Maria, riguarderà anche il prossimo concorso per dirigenti scolastici. È vero che ci sono alcune categorie, sorprendentemente qualcuno ha detto, escluse da questa riforma: i medici, prefetti, diplomatici e tanti altri ancora. E perché, Davide? Magari sì, dovrei chiederlo a Rughetti, però magari intanto raccontacelo tu dal punto di vista della cronaca. Ma dunque, sì, ci sono delle esclusioni, quelli che citavi prima, i dirigenti medici, veterinari, eccetera. Diciamo per una razza, evidentemente, che però poi nel resto dell'impianto della riforma forse è replicato fino a un certo punto. Nel senso che mi chiedevi un parere su quello che ho sentito finora. Proviamo a leggere la logica di questa riforma dal punto di vista che è un po' nostro, cioè quello della teoria economica, noi ci troveremmo di fronte a degli agenti razionali, come dicono gli economisti, cioè dei dirigenti che in qualche modo si ritrovano dentro un meccanismo comunque di rotazione molto stretta, cioè ogni 4 anni devo capire se vengo prorogato per 2 anni, oppure se devo cominciare a guardarmi intorno per trovare una nuova collocazione. È un meccanismo che in qualche modo accende una sorta di interesse a non perdere chance da una parte, ma anche a tutelare la propria posizione dall'altra, nel senso che questo dirigente che ha fatto la carriera che abbiamo sentito prima raccontare, che ha superato un corso concorso, che ha avuto la selezione d'ingresso, oppure pensiamo a un dirigente che già c'è, pensiamo a un dirigente di 50-60 anni che deve lavorare ancora per un diverso numero di anni, che è un dirigente apicale di un ministero, per esempio, o di un ente pubblico non economico, o come volete, e che si ritrova in un meccanismo di questo tipo. Allora, che cosa succede dal punto di vista della teoria economica? Molto semplicemente succede che questo dirigente in qualche modo si trova a dover perseguire un interesse che va un po' oltre quello del suo datore di lavoro, cioè dell'amministrazione in cui lavora, nel senso che a un certo punto sa che basta un non rinnovo e lui si ritrova in un ruolo unico, con il rischio che se rimane per un anno in questo ruolo unico perché non trova una ricollocazione... Ha un taglio dello stipendio del 40%? Un taglio dello stipendio forse del 50%, perché la parte fondamentale della retribuzione arriva al 50%, la parte accessoria supera il resto del 30%, di questa parte, diciamo, accessoria poi c'è un di cui, che è la parte legata al risultato, che è di circa il 15% del totale per i dirigenti normali, del 24% totale dei dirigenti generali. Questo, come dire, che cosa significa? Significa che il meccanismo è competitivo. Come dicevo prima, si tratta di capire se questo modello di competition interna alla pubblica amministrazione, certo, sarà virtuoso. Secondo me c'è un rischio, cioè c'è un rischio di uscita dalla specializzazione, no? Nelle aziende. Infatti, la rotazione forse è troppo stringente, troppo limitata, sì, nel tempo. Ma insomma, una grande azienda il direttore vendite o il direttore finanziario di una multinazionale non è che ogni 4-5 anni necessariamente si trova messo in discussione, anzi è l'azienda per prima, con una logica economica molto coerente, molto sperimentata sui mercati, che cerca di trattenerlo se è bravo e di incentivarlo. Ecco, incentivarlo vuol dire anche incentivarlo dal punto di vista, e qui c'è la competition vera di mercato, esatto, dal punto di vista economico. Noi sappiamo che nella pubblica amministrazione dal 2011 in poi non solamente c'è stato un blocco delle retribuzioni e delle articolazioni sullo sviluppo delle carriere, ma c'è un tetto, nel senso che noi sappiamo che la competition dei migliori dirigenti della nostra pubblica amministrazione comunque avviene dentro un tetto che sono 240.000 euro lordi l'anno, che netti fanno circa poco più di 120.000 euro l'anno, e quello è. Quindi è interessante il meccanismo, però bisogna tener conto del fatto che ci si muove in spazi molto limitati e secondo me con qualche potenziale conflitto di interessi tra il direttore generale, che deve perseguire una carriera ma anche salvaguardare il suo stipendio, perché poi quando la finanza pubblica ha delle difficoltà si tratta di questo, e un'amministrazione che se è bravo deve tentare di trattenerlo, oppure deve agire con delle scelte che appunto in un così stretto intervallo forse sono difficili da valutare. Davide, grazie, devo andare a chiusura, mi mancano appena 2 minuti e mezzo, vorrei assegnare un ultimo commento finale sia ad Antonio Naddeo che al sottosegretario Rughetti. Naddeo, quanti presupposti di contenzioso si stanno creando con la pubblica amministrazione per questa riorganizzazione? In 30 secondi ce la facciamo? So che lei vorrebbe intervenire su molti altri punti, magari lo faremo in futuro. No, beh, contenziosi ci possono essere perché ogni volta, tanti ce ne possono essere perché ogni volta che ci saranno procedure selettive, è vero, non è un concorso, sono procedure, diciamo, selettive di scelta di candidati, ovviamente basandosi poi esclusivamente sul curricula di ogni singolo candidato, secondo me contenziosi ce ne possono essere, ma penso che questo sia stato valutato anche, diciamo, dalla funzione pubblica. Volevo solo dire 2 secondi, sì. I carichi di vertice nelle pubbliche amministrazioni sono aperti a tutti, questo provvedimento non si applica direttamente per esempio ai capi dipartimento, ai segretari generali dei ministeri, dove possono arrivare anche dirigenti degli enti locali, tant'è vero che un posto rilevante nell'ambito della presidenza del Consiglio, l'avvocato Manzione, è un dirigente degli enti locali che copre un ruolo importante nell'ambito dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, che è un capo dipartimento, perciò questo è aperto. Diciamo, io mi riferivo alle cose che sono a un livello un pochino inferiore, certo, cioè quello dei dirigenti, e su quello qualche aggiustamento secondo me su questo provvedimento si può fare. Su che cosa siete disposti a fare qualche aggiustamento, sottosegretario Rughetti? Abbiamo un minuto di tempo, le chiedo anche un commento di 30 secondi. Lei in passato è stato responsabile dell'ufficio di coordinamento istituzionale per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna. 30 secondi di commento, anche se tutte le idee sulla ricostruzione post-sisma che sta leggendo in questi giorni sui giornali ce l'ha? Ma sul terremoto certo che ho le mie idee, penso che la scelta che abbia fatto il governo, cioè quella di seguire, accompagnare le scelte che vengono fatte dalle comunità locali, sia una scelta saggia. Io, per dirla con uno slogan, diciamo, anche se può essere interpretata come slogan di parte, penso che il modello Emilia funzioni meglio del modello L'Aquila, esatto, cioè dove ci sono responsabilità diffuse con un coordinamento nazionale, meglio rispetto a un decisionismo, diciamo, centrale che può scavalcare, che può dare l'impressione di arrivare prima, che poi alla fine crea soltanto tanta confusione. Su che cosa siete disposti a fare aggiustamenti sulla riforma della dirigenza della pubblica amministrazione? 20 secondi, non ho di più. Guardi, siamo disposti a migliorare tutte le parti che rendono più efficace questo nuovo meccanismo. Siamo disposti ovviamente ad ascoltare ed apprendere tutte le proposte di modifica che verranno dalla Conferenza Unificata, dal Consiglio di Stato e in particolare dalle commissioni parlamentari. Non ci siano difficoltà a cercare di migliorare tutta quella parte che consente di alleviare da un lato contenziosi e dall'altro a rassicurare. Non è una riforma fatta contro qualcuno. Ecco, io questo ci tengo a sottolinearlo. Dottor Naddeo lo sanno i suoi colleghi, noi non abbiamo nessuna voglia di rivalsa, anzi pensiamo che questa dirigenza, soprattutto quella della pubblica amministrazione centrale, sia una dirigenza solida, grazie, abbiamo avuto delle buone esperienze. Quindi devo chiudere purtroppo, grazie per le sue rassicurazioni, speriamo sia stato convincente per Antonio Naddeo, grazie a Davide Colombo, grazie a tutti, c'è il giornale radio, ma noi torniamo subito dopo. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? Eccoci ritrovati in diretta, è un'estate in cui si discute anche naturalmente di economia e oggi discutiamo di trattati economico-finanziari, economici appunto internazionali. Allora, domenica scorsa il ministro dell'economia, vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, aveva detto che i negoziati fra Unione Europea e Stati Uniti sulle TTIP, il trattato transatlantico per il commercio e gli investimenti, erano di fatto falliti. C'è stata poi una correzione di tiro ieri sia da parte del portavoce del governo, che ha parlato di contrasti tra Bruxelles e gli Stati Uniti, soprattutto fra le varie economie europee che vogliono dire la loro, ma spesso sono decisive le fasi finali. Ieri è stato detto anche da Bruxelles è arrivata un ridimensionamento rispetto a questa interruzione delle trattative e Bruxelles ieri ha fatto sapere che si è pronti a chiudere l'accordo entro la fine dell'anno purché le condizioni siano quelle giuste. Allora, il TTIP è una delle questioni economiche internazionali più discusse degli ultimi anni, è un accordo che qualora entrasse in vigore, le trattative sono durissime, vanno avanti da qualche anno, dal 2013, prevederebbe molti cambiamenti nei rapporti commerciali appunto fra gli stati dell'Unione Europea e gli Stati Uniti. È un accordo molto criticato da parte di economisti, osservatori politici, ma dall'altra parte ci sono anche molte organizzazioni invece che lo vogliono fortemente. Un accordo che, qualora fosse raggiunto, dovrebbe agire in alcune direzioni molto importanti. Le prime di tutte sono aprire una zona di libero scambio fra Europa e Stati Uniti in alcuni settori specifici, merci, servizi, investimenti e appalti pubblici, uniformare e semplificare le norme commerciali fra le due parti. Si è tanta contestata la poca trasparenza con cui le trattative vanno avanti, non si ha grande accesso ai documenti che stanno portando avanti appunto tutti i funzionari impegnati nell'elaborazione appunto della stesura del testo del trattato, e ci sono insomma tanti aspetti da affrontare. Lo faremo questa mattina con un professore universitario che ce ne spiegherà i termini e poi con chi è contro e con chi è a favore del proseguimento ovviamente delle trattative e quindi della conclusione dell'accordo. Fra questo c'è Luigi Scordamaglia, che è presidente di Federalimentare. Lo sento subito perché su un aereo decolla praticamente a minuti. Scordamaglia, quando ha sentito lei che dalla Germania era arrivato questo, questo monito, questa indicazione sull'interruzione delle trattative su appunto negoziati falliti, so che aveva già espresso una posizione molto dura su questa direzione che aveva preso appunto la trattativa su TTIP. Ci dice oggi come la pensa? È tranquillo sul fatto che Bruxelles abbia un po' rasserenato, provato a rasserenare il prima? Che tipo di occasioni avrebbe l'Italia da un accordo di questo tipo? Bah, buongiorno, sì, come diciamo dall'inizio con numeri e non solo con delle affermazioni generiche, la conclusione di un accordo bilaterale con gli Stati Uniti per il settore agroalimentare italiano è una enorme opportunità, è il mercato di riferimento principale, il più dinamico, quello che cresce maggiormente, ha fatto più 20% lo scorso anno, ma soprattutto ci sarebbero enormi opportunità per tantissime piccole e medie imprese italiane che oggi trovano degli ostacoli, soprattutto nelle barriere non tariffarie, il cui obiettivo del TTIP è proprio quello di ridurre e semplificare gli scambi. Quello che diciamo viene evidente da considerare dopo le dichiarazioni del portavoce tedesco è che è un ulteriore segnale di profondissimo indebolimento dell'Europa. L'Unione Europea è sempre meno protagonista a livello internazionale. Se 28 Stati membri danno prima mandato alla Commissione Europea di negoziare stabilendone i termini, i riferimenti, gli standard, e poi ciascuno Stato cavalca populismo, pregiudizi ideologici secondo le brevi scadenze elettorali, vuol dire che il progetto Europa è fallito. Esatto, perché stiamo poi il punto fondamentale milioni. È quello, esatto. Certo. Si è parlato molto di una azione, quella della Germania, riconducibile naturalmente anche alla partenza dalla campagna elettorale che le porterà appunto questo paese alle elezioni del prossimo anno. Scordamaglia. Ma certo, stiamo parlando di una cosa troppo importante. L'Unione Europea deve decidere, o esiste come protagonista e diventa protagonista di questa realtà eccezionale che rappresentiamo a livello mondiale in termini di commercio, non solo, in termini di standard. Quindi o prende il timone della globalizzazione, chi pensa che la globalizzazione si fermi è assolutamente fuori tempo, la globalizzazione è una cosa positiva se governata, attraverso il TTIP noi abbiamo la possibilità di governare dove vuole andare il commercio mondiale, quelli che devono essere gli standard internazionali, non dobbiamo cedere su niente e né la Commissione ha la possibilità di cedere su niente visto che il mandato negoziale è estremamente preciso, quindi è inutile fare della disinformazione, verremo invasi da OGM o da carni ormonate, queste cose non sono in discussione e proprio questo è il motivo per cui gli americani ovviamente fanno resistenza, gli americani hanno capito che vuol dire chiudere il TTIP, come stiamo provando a fare, vuol dire innalzare gli standard internazionali su livelli europei. Chi dice il contrario non conosce l'oggetto della discussione. Ci fa un esempio concreto, Scordamaglia, in che termini la circolazione, certo, per esempio, del prodotto agroalimentare italiano avrebbe, non lo so, più appunto facilità di circolazione o comunque requisiti di sicurezza più, certo, elevati, secondo quali standard? Ecco, ci allora spieghi? Le faccio un esempio attivo e passivo. Nel termini di attivo, noi uno degli argomenti in discussione è la tutela delle denominazioni geografiche italiane. Negli Stati Uniti vengono venduti circa 27 miliardi di Italian Sounding, di prodotti che richiamano l'italianità, prodotti alimentari, senza in realtà essere prodotti in Italia, perché quelli prodotti in Italia ed esportati sono appena 3,2 miliardi di euro. Attraverso questo accordo, se anche non arrivassimo ad avere una tutela legale, che è molto complessa, di tutte le denominazioni, potremmo avercele per le più importanti, potremmo anche fare in modo che venisse vietata l'evocazione di italianità, cioè che si vendesse magari il Parmesan del Wisconsin, che potrà continuare ad esistere, con belle fotografie o delle bandiere italiane che ingannano il consumatore americano. Stiamo facendo la battaglia all'Italian Sounding in tutto il mondo, abbiamo uno strumento che ci consente di fare un passo importantissimo in questo senso, non possiamo certo rinunciarci. Un esempio opposto, cioè gli standard europei che non si toccano, si dice, per esempio, si parla di importazione di carne con gli ormoni, già da decenni l'Unione Europea importa carne dagli Stati Uniti, ma per farlo ha preteso ed ottenuto che gli Stati Uniti creassero delle filiere hormone free, quindi nessun cedimento sugli standard igienico-sanitari, e questo è chiaro sin dall'inizio nel mandato negoziale della Commissione. Certo, la reciprocità va bene, ma bisogna che le due aree economiche interessate si adeguino rispettivamente agli standard verso il livello massimo. Naturalmente non c'è una trattativa al ribasso. Scordamaglia, la lasciamo prendere il suo volo. Grazie molte per essere stato con noi. Abbiamo rimarcato ancora una volta quanto è importante questo accordo per il settore agroalimentare italiano, ma adesso vorrei comprendere un po' meglio lo spirito di tutto questo accordo appunto commerciale. Allora, ci aiuta Claudio Dordi, docente di diritto internazionale all'Università Bocconi, tra Scordamaglia che stava prendendo un aereo, e abbiamo invece un professore della Bocconi che sta in Vietnam, ma lo stesso ha accettato questa mattina di aiutarci a capire un po' meglio questo tema. Professor Dordi, buongiorno e grazie. Ci sente? Buongiorno, buongiorno. Benissimo, guardi, sembra proprio qui dietro. Allora, i negoziati vanno avanti dal 2013, ma in realtà, come dire, si studiava questo accordo da molto tempo prima, da almeno 10 anni prima. Comunque si è proceduto a passo di lumaca, perché naturalmente le teste da mettere d'accordo, il lavoro diplomatico è stato durissimo, gli interessi in gioco sono enormi. Lo ricordava poco fa Scordamaglia, parliamo delle 28 nazioni dell'Unione Europea, ma parliamo anche dei 50 stati degli Stati Uniti d'America, un totale di 820 milioni di cittadini che sono interessati a questo accordo, e pensate che la somma del PIL di Stati Uniti e Unione Europea corrisponde a circa il 45% del PIL mondiale, quindi immaginate che impatto possa avere un accordo di questo tipo, che rimetterà con regole nuove in circolazione beni, servizi, ma anche una riorganizzazione, si parla, professor Dordi, degli investimenti, degli appalti pubblici, quindi la posta in gioco è enorme, per cui comprendiamo anche qualche volta quando arriva un po' di stop che ha una matrice politica come quella delle ultime ore. Lei che cosa ne pensa di questo stop and go che è arrivato appunto dalla Germania, con questa poi correzione di rotta di Bruxelles? Ma come è stato anticipato prima, si tratta di questioni di politica interna. Del resto, la globalizzazione e il libero scambio non godono di molto favore nella politica nazionale. Lei pensi che negli Stati Uniti due candidati non sono a favore dell'altro accordo importante che è partecipato dagli Stati Uniti, cioè l'accordo transpacifico. Ulteriormente, la Francia ha spesso dichiarato, in previsione delle elezioni dell'anno prossimo, che è contraria a questo accordo di integrazione regionale, e la stessa uscita del Regno Unito, tentativo di uscire del Regno Unito dall'Unione Europea, è più che altro motivato dalla paura della globalizzazione e dalle conseguenze. Quindi non mi sorprende che il candidato tedesco, che è di un partito progressista e quindi di uno dei partiti che riflettono le maggiori preoccupazioni nei confronti di questo accordo, abbia dato questo punto di vista che mette in difficoltà, insomma, anche i negoziatori europei. D'altro canto, comunque, oggi c'è stata la chiara risposta, anche già ieri, da parte dei negoziatori europei, i quali hanno affermato che appunto l'accordo dovrà essere chiuso entro la fine di quest'anno, ma non, probabilmente non lo sarà, ma comunque i negoziati continuano. Dall'altro lato è vero che comunque ci sono delle differenze negoziali come in tutti gli accordi internazionali. Tutti ricorderanno le difficoltà dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a promuovere un'ulteriore liberalizzazione. Vi ricorderete negli ultimi anni, da Seattle in poi, 1999, come è stato difficile promuovere la liberalizzazione a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio. E le differenze tra Unione Europea e Stati Uniti sono soprattutto differenze anche di standard regolamentari, perché è vero che il mandato dell'Unione Europea è quello di non recedere dal minimo standard di protezione della salute, della tutela del consumatore e della sicurezza alimentare che è vigore in Europa. È altrettanto vero però che negli Stati Uniti esistono dei sistemi differenti per proteggere, per raggiungere questo tipo di protezione. E quindi un tema di discussione è questo. E il tema di discussione non è solamente basato sullo standard, ma soprattutto su come dobbiamo negoziare gli standard. Dobbiamo creare un organo esterno o comunque un organo in particolare dedicato all'analisi di questi standard? E poi questo organo esterno che tipo di decisioni potrà dare? Quindi si tratta di questioni molto importanti, e del resto il commercio tra Unione Europea e Stati Uniti è un commercio che va a oltre più di 500 miliardi di dollari, e il surplus di euro, scusate, il surplus dell'Unione Europea è di oltre 122 miliardi di euro, quindi insomma si tratta di un accordo molto importante che incide su questioni molto importanti. Infatti ci sono un'ultima anche... questione, sì. Qui aspetto una sua domanda, un'ultima questione interessante, non mi sorprende che poi che sia la Germania a venire fuori con questa dichiarazione, perché la Germania è fra i paesi europei il paese che ha il surplus commerciale più elevato nei confronti degli Stati Uniti. Quindi i tedeschi, tutto sommato, già a loro i rapporti come sono con gli Stati Uniti potrebbero anche andare bene, almeno di base. No, tra l'altro è anche quell'aspetto che viene molto contestato in questi periodi di difficoltà economiche appunto europee, lo dovrebbero anche un po' provare a correggere, invece non lo fanno, di conseguenza forse attaccano proprio il TTIP per queste ragioni. Allora, abbiamo recuperato anche la portavoce della campagna Stop TTIP Italia, Monica Di Sisto, che è anche vicepresidente dell'associazione Fair Watch, che si occupa di clima, di commercio internazionale, e la campagna Stop TTIP Italia raduna molte associazioni italiane, ci sono addirittura delle associazioni dei consumatori. Di Sisto, buongiorno e grazie di essere buongiorno, con noi. Buongiorno, grazie a voi, scusate il problema. Non si preoccupi, ci siamo, ce la facciamo ancora qualche minuto a sentire le vostre posizioni. Perché questo accordo non volete che vada avanti? Non vi convincono certi termini? Auspichereste una interruzione totale o quantomeno una correzione rispetto alle trattative in corso fra gli interlocutori europei e quelli americani? Di Sisto. Ma noi quando abbiamo cominciato e lanciato la campagna abbiamo detto stop, perché il fatto che fosse negoziato assolutamente in segreto, non si sapessero assolutamente i termini dell'accordo, addirittura i parlamentari non potessero leggerlo come è stato per altri accordi analoghi così importanti, soprattutto in questo caso ci sembrava assurdo e ci sembrava soprattutto così molto, molto surreale che una portata così imponente proprio di cambiamento, ascoltavo l'intervento che mi precedeva, delle regole di decisione degli standard di prodotto, degli standard di produzione, di distribuzione di servizi e prodotti tra le due economie più avanzate tra le più le due economie più avanzate del pianeta, ci sembra insomma, fosse surreale che non si potesse discutere in un contesto diverso, considerato che quelle regole le avevano stabilite i nostri governi. Quindi è il metodo che contestate, non il contenuto dell'accordo? No, il metodo e il contenuto in questa fase soprattutto metodologicamente, cioè quando si dice creiamo una corsia preferenziale perché le imprese possano difendere i loro interessi e i loro investimenti in corti arbitrali senza dover passare dalle corti ordinarie e soprattutto creiamolo appositamente, senza ricorso, cioè con tutta una serie di caratteristiche che non riguardano i nostri sistemi giudiziari, è un altro punto che ci preoccupa. Il fatto che se un prodotto possa essere accettabile o meno per un mercato, debba deciderlo in gran parte, in larga parte, come succede nell'organizzazione dell'OMC, il fatto che questo prodotto sia commerciabile con maggiore facilità o minore facilità e non il fatto che sia per esempio sano o sia sicuro come determinante nella scelta è un altro tema che ci preoccupa. Tutti i temi però che sarebbe stato importante fin da subito affrontare in un tavolo aperto per poterli risolvere insieme alle organizzazioni dei produttori, alle piccole e medie imprese, alle organizzazioni sindacali che come i parlamentari, non parlo dell'ultimo barista che parla di calcio, ma insomma degli stakeholder importanti non erano coinvolti e non potevano leggere certo. Il testo. In che modo portando avanti la vostra campagna di Sisto? A quale tavolo state proponendo la vostra posizione? Appunto, c'è apertura anche nei confronti delle voci dissonanti, che non sarà stata la vostra, non è ovviamente l'unica a livello internazionale, ma insomma in che maniera venite ascoltati? Noi questo ascolto ce lo siamo dovuto conquistare e diciamo che il fatto che abbiamo raccolto oltre 3 milioni di firme in tutta Europa che appunto contestavano il trattato e la sua metodologia hanno fatto sì appunto che per esempio i parlamentari potessero leggere ed è chiaro che questo ha creato un canale di apertura. Noi abbiamo sia molte delle nostre associazioni, la mia in particolare, accreditata a Bruxelles nel dialogo con la Commissione Europea, quindi questi problemi li abbiamo posti fin da subito al tavolo della trattativa, appena il negoziato è stato lanciato. Man mano che siamo cresciuti siamo riusciti a condividere con la campagna che è presente in tutta Europa e quindi con tutti gli stakeholder preoccupati di questi temi, il tema ai nostri governi. Noi abbiamo anche per esempio stimolato una campagna delle autorità locali, sono oltre 60 le autorità locali, tra cui la Regione Lombardia, la città di Milano, la Regione Toscana, la Regione Puglia, hanno sottoscritto suggerimento una mozione proprio per dirsi preoccupati dei contenuti del trattato e per chiedere che questa discussione si generalizzasse nel paese. Siamo riusciti addirittura ad avere in Italia un incontro con il capo negoziatore Bersero insieme all'allora vice ministro Calenda, abbiamo rincontrato il ministro Calenda, abbiamo fatto gli incontri in Parlamento, cioè la nostra non è un'opposizione frontale e immotivata, no, assolutamente. Noi abbiamo sviluppato tonnellate di materiale in cui analizziamo i testi anche quando non erano pubblici, li abbiamo tirati fuori e li abbiamo discussi e questo devo dire che lo rivendichiamo come un metodo che ha fatto sì che appunto abbia fatto addirittura crescere nell'apertura e nel coinvolgimento del nostro paese e degli attori interessati una consapevolezza diversa da quella rispetto a quella dell'inizio. Grazie Monica Di Sisto. Volevo completare il nostro ragionamento col professor Claudio Dordi, lo ricordo ancora, docente di diritto internazionale. Da precisare rispetto a quello che è stato detto dalla campagna Stop TTIP Italia. Beh, però sulla questione del metodo e del procedimento all'insegna della totale sicurezza su come vanno avanti i negoziati, i documenti che non si riescono a leggere, a reperire, quantomeno io non dico che Deborah Rosciani debba avere accesso appunto ai documenti che questi funzionari stanno compilando. Sul sito dell'Unione Europea, ha visto? C'è un sito dedicato esclusivamente. Beccata al volo, proprio pizzicata. I documenti ma allora perché viene tanto enfatizzata questa questione della segretezza? Perché allora viene tanto enfatizzata da tutti la questione della segretezza? A quali documenti si vorrebbe avere accesso? No, ma il punto è questo, il punto che vengono, io non sono un accademico, quindi non dimostro né favore né contrario. No, però vi conosco molto bene, siete ossessionati appunto dalla documentazione ufficiale delle questioni, non vi bastano sicuramente i giornali come noi. Ha iniziato il negoziato come tutti gli altri negoziati in via segreta e giustamente con Wikileaks, che ha pubblicato i primi documenti, ha poi iniziato a dedicare un sito esclusivamente a tutte le informazioni sul TTIP, dove lei può avere decine di migliaia di pagine di informazioni. Secondo, il negoziato, è chiaro che si tratta di un negoziato internazionale, come un contratto, il negoziato non può essere pubblico, apertamente pubblico, ma tutte la procedura dell'Unione Europea prevede un sistema di garanzia per il negoziato. Il negoziato è condotto dalla Commissione, si tratta di funzionari normali che sono esperti della materia, che negoziano con la controparte. Il mandato viene dato dal Consiglio, che è il rappresentante di tutti i governi nazionali, quindi tutti i governi nazionali sono, dei 28 paesi, sono perfettamente informati. Durante il negoziato i negoziatori riportano periodicamente al Consiglio, quindi i governi sono periodicamente informati della questione. E in base al diritto dell'Unione Europea anche il Parlamento deve essere sentito, e il Parlamento dell'Unione Europea. Quindi questa cosa della segretezza dei negoziati, della difficoltà di reperire le informazioni, ma andate sul sito a vedere tutto. Guardate, io per preparare delle conferenze spendo giorni a vedere il sito dell'Unione Europea e mi sembra veramente ingiusto questa cosa. Poi ci sono altre inesattezze, c'è ancora? Sì, ci sono ancora, la desisto anche probabilmente all'ascolta. In due minuti devo chiudere questo blocco, quindi le lascio quest'ultima ringa finale, professor Dordi, per poi tanto, guardi, no, siccome le trattative riprenderanno tranquillamente, avremo modo di riparlarne di questi argomenti. Cos'altro va precisato? Sugli investimenti si dice. Sì. Ecco, sugli investimenti si dice. Saltando le corti nazionali. Allora, io... farei questa proposta: andate a vedere quanti sono gli investimenti diretti esteri in Italia negli ultimi anni, come sono cresciuti, anzi come sono decresciuti, e perché gli investitori non vengono. Secondo, avere un sistema di soluzione delle controversie che consente di avere soluzione delle controversie concrete, veloci, senza dover sottostare a tutte le lunghissime procedure italiane, secondo me è un vantaggio. Oltretutto l'Unione Europea sta proponendo un nuovo sistema di soluzione delle controversie che tende a risolvere tutti i vecchi problemi dei vecchi sistemi di soluzione delle controversie in materia di investimenti, che era basato sul sistema di arbitri internazionali. Invece adesso ci sarà una corte permanente, se passerà questo negoziato. E da ultimo, non voglio trascurare l'aspetto della falsità detta anche sugli standard di sicurezza sanitaria del prodotto. In base al WTO ogni Stato ha il diritto di importare i prodotti in conformità con le proprie norme nazionali in materia di tutela della salute. E se e chiaramente lo Stato ricevente, vogliono dei dati oggettivi scientifici, ma l'Organizzazione del Commercio consente anche una sorta di diritto di precauzionalità, quindi anche il diritto di non importare per almeno un periodo limitato di tempo prodotti che possono essere pericolosi. Tutte queste sono falsità, invece, le altre, che sono state diffuse e che circolano su internet e si autoalimentano, e veramente poi dopo stavo pensando all'intelligenza emenziana che aveva coniato questo termine molto interessante l'altro giorno. E così si diffondono le informazioni, invece le persone dovrebbero studiare, informarsi, andare a vedere sul sito e capire, e poi dopo criticare. Certo. Insomma, siamo partiti da questo stop decretato dalla Germania nella sua testa, per andare un po' a ribadire i punti che sono al centro anche dello scontro fra chi è favorevole al proseguimento della trattativa, a questo accordo complessivamente, e chi invece è contrario, tra chi è favorevole e chi è contrario. Naturalmente, quello che abbiamo capito noi comuni mortali, che si tratta di un tema molto delicato, ci sono in ballo molti interessi economici, per cui le trattative andranno sicuramente avanti. Siamo certi che questo accordo verrà raggiunto, anche se ci vorrà un po' più tempo di quanto previsto, e poi tanti aspetti ancora da capire, soprattutto per quello che riguarda le ricadute economiche concrete anche fra noi consumatori. Intanto, professor Dordi, devo salutarla, ma la risentiremo molto volentieri prossimamente, così come torneremo anche ad ascoltare volentieri le voci di chi è portatore, appunto portavoce, di questa campagna contraria al proseguimento del TTIP. Adesso invece andiamo a curiosare su quello che ha fatto Mark Zuckerberg ieri a Roma in questo weekend tutto italiano. Tra poco. Ma cos'è quest'estate? La gente è accorsa in massa su FaceMash, giusto? Sì. Ma non per le foto delle ragazze fiche, puoi trovarle ovunque in rete, le foto delle ragazze fiche. Sì. Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono: foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa. E non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. E allora, nell'estate del vorrei ma non posto, questo tormentone, come ho già ricordato ieri, appunto molto noto, questa canzone in cui abbiamo continuato a raccontare di questa comunità appunto di aderenti ai social network che non fanno altro che fare fotografie e postarle anche prima di godersi i panorami, ovviamente si inserisce in questa estate di questo tormentone anche la visita tutta italiana di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook. Abbiamo sentito il pezzo appunto tratto dal film che ne racconta questa sua incredibile esperienza. Allora, questa mattina noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di raccontare la sua visita, che cosa aveva raccontato alla LUISS di Roma, di parlare anche del fenomeno delle start-up italiane. È possibile che ci possa essere in Italia un Mark Zuckerberg appunto della situazione, o quantomeno un modello di imprenditore, anche se solo lontanamente paragonabile a lui? Invece, che cosa è successo? C'è stato il caos sui social network proprio per la l'ideona che ha avuto di dare questo contributo ai terremotati del centro Italia. Luca Tremolada, Il Sole 24 Ore, con che modalità? Perché mica l'abbiamo capita. Allora, 500.000 euro erogati in crediti per la pubblicità. Sostanzialmente ha dato la possibilità alla Croce Rossa Italiana di fare per 500.000 dollari di banner su Facebook, per cui insomma ha fatto un'operazione tutta in casa: ti do la possibilità di apparire sul mio social network in modo gratuito, e così ti puoi fare pubblicità, e quindi se ti fai pubblicità avrai anche maggiori possibilità di raccogliere fondi. Insomma, un'operazione interessante ma discutibile, nel senso che il tema è di fronte a 300 vittime, naturalmente è chiaro che l'operazione è discutibile, ma da lui che cosa ci si voleva aspettare? D'altronde ognuno dona quello che può, che ha. Ho visto tante cose stamattina sui giornali, per esempio il parrucchiere che mette a disposizione la sua professionalità e fa le pieghe alle signore terremotate, l'altro che ha la ferramenta e regala tutti i suoi attrezzi. Mark Zuckerberg che cos'altro poteva fare, secondo lei? Dare un po' di cash? Ma allora, il pensiero un po' bassino, un po' codino, no? Cioè quello, vabbè dai, tira fuori due soldini tu. È vero che lui ha dato anche 50.000 dollari per un supercomputer che all'università di Modena, Reggio Emilia, studierà l'intelligenza artificiale. Per cui insomma, non è solo quello. Però, è stato certo, anche a cena da bottura nel modenese. È stato a cena da bottura. Diciamo che Obama faceva meno baccano arrivando in Italia. Il punto è questo, diciamocelo, che è arrivato con tutti gli onori del capo di Stato e di governo, a partire dalla risonanza che ha avuto la sua partecipazione al matrimonio sul Lago di Como del suo collega appunto fondatore di Spotify, fino poi alla sua visita romana. No, ma poi è stato un bombardamento. Io mi sono divertito come un pazzo su Facebook, nel senso che ogni 20 minuti arrivavano foto di lui con il Papa, lui con Matteo Renzi, cioè lui ovunque, lui che ha parlato alla community. E bada bene, la cosa interessante è che le domande le potevano fare solo gli studenti. Anche questa è una cosa. Quindi se ci fossi andato tu non ti sarebbe stato permesso di fare una domanda? Ma no, noi non sono più uno studente. Per cui, no, ma poi le domande erano anche meravigliose, perché alcune erano: ma i 5 punti più belli di Facebook? È una domanda che affianta. No, cioè, tra l'altro raccontiamo messo alla anche berlina, della modalità con cui ha tenuto questa Lectio Magistralis alla LUISS di Roma. Era in videoconferenza e contestualmente era possibile assegnare dei like al suo intervento. Non l'ho visto, ma tu che ti sei divertito anche in questo. Ma era bellissimo, lui è bellissimo, nel senso che... Allora, bello è un'altra cosa, però vabbè. Bello dentro. No, la cosa divertente è che c'era lui che parlava, lui ha questa modalità molto americana di porsi con la maglietta. È molto bravo secondo me nella comunicazione. E poi sotto, se tu seguivi la diretta su Facebook, comparivano i like, i cuoricini, le faccine arrabbiate, per cui è una modalità completamente nuova, perché tu immaginati un capo di Stato che parla e sotto hai la possibilità di dire se ti piace o non ti piace, che fluivano a flusso, per cui avevi tutti questi ok che arrivavano, che insomma a un europeo, ecco, mettiamola così, che sono poi di base sono un vecchio europeo, cioè fanno un po' strano, fanno un po' il grande capo d'azienda della multinazionale che arriva in Italia, dice sì ragazzi ce la potete fare, sì wow le startup, passano sotto i like e poi ti domandi il senso di tutto questo. Certo. Anche. Allora andiamo un po' alla ciccia di questa sua visita, a prescindere dagli aspetti un po' folcloristici e di colore che sono emersi e che comunque aiutano anche ad arricchire i nostri programmi. Lui ieri, al termine di questo incontro lavoro alla Luis di Roma, ha avuto anche un incontro privato con 15 selezionatissimi manager di start-up tecnologiche italiane, e questo è il presupposto anche un po' del nostro programma di questa mattina, del nostro approfondimento. Ne sono stati citati solo alcuni sui giornali, e peraltro al termine di questo primo incontro selettivo con 15 manager, alla fine i manager che accompagnavano Zuckerberg ne hanno richiamati 4 o 5, che lui evidentemente aveva ritenuto degni di un ulteriore incontro. Quindi anche questo è un altro aspetto. Ai manager che ha incontrato, lui ha chiesto come usano il suo social network, in che cosa potrebbe correggere il tiro e in che cosa potrebbe ulteriormente adattarsi per rispondere alle loro esigenze, quindi alle esigenze dei nuovi imprenditori. Mi ha ricordato molto il perfezionismo alla Steve Jobs, Luca. Sì, allora i personaggi sono molto distanti, nel senso che Steve Jobs era maniacale e lavorava su oggetti. Mark Zuckerberg invece lavora su logiche, su logiche di partecipazione, di engagement, per cui se vogliamo uno creava degli oggetti che sostanzialmente devono essere belli e funzionali, è un designer. Mark Zuckerberg non è un designer, è un po' più dritto, cioè nel senso è uno che utilizza le informazioni che tu hai e la però tua con la stessa ossessione maniacale vuole sapere cosa il mio social network può esserti utile fino in fondo per la tua attività imprenditoriale. Anche perché Deborah è un abilitatore di business, cioè, va anche detto, cioè Facebook è uno strumento che permette di fare dei soldi ad altre persone che magari sviluppano cose a casa loro. Certo. Sempre, parliamo sempre di un bar, la metafora del bar è sempre la migliore per capire cosa è un social network, per cui è un bar loro, per cui ci fanno quello che vogliono. Poi lì dentro ti possono dare uno spazio dove ti puoi inventare qualcosa, certo sei sempre a casa loro, questo va ricordato. Avrà ispirato alcuni nuovi potenziali start-upper d'Italia, adesso esploriamo questo mondo. Partiamo con questo approfondimento, Luca. Secondo te comunque continua ancora a rappresentare fonte di ispirazione e stimolo per chi magari vorrebbe emularlo, a questo sogno nel cassetto, adesso arrivare a tanto non lo so se è possibile, ma magari qualche piccolo traguardo in Italia, perché no? Certo, come Ford, cioè nel senso che qua siamo nell'era digitale, magari 30 anni fa c'era l'idea di Ford, del piccolo imprenditore che poi costruisce un'industria meravigliosa. Diciamo che questo, diciamolo subito, e poi voglio anche... Magari un po' più di 30 però. Sì, infatti ho detto, l'ho sparata un po' così. No, la cosa che volevo dire è questa, cioè poi voglio sentire anche cosa ne pensano gli startup che ha invitato. Ecco che, insomma, inventarsi oggi un social network è come vendere ghiaccioli nell'Antartide, cioè è complicato, ecco, soprattutto perché ormai i social network sono quelli, sono mega piattaforme, è difficile che dall'Italia nasca il nuovo Mark Zuckerberg che fa social network. Piccole cose ce le possiamo inventare. Certo. Cos'è una startup, Luca? Allora, una startup è un'azienda innovativa, cioè è stata introdotta un paio di anni. Che può essere l'app sullo smartphone, come anche una piccola azienda che opera nella manifattura italiana. Esatto. Chiariamolo molto bene. Chiariamo che non è una pizzeria, ecco, per capire, per spiegarlo bene, nel senso che deve avere delle caratteristiche, cioè dei laureati al suo interno, degli investimenti in ricerca e sviluppo, una vocazione a creare dei prodotti innovativi, altrimenti, cioè, che sono determinati dalla legge. Se non hai queste caratteristiche non sei una startup innovativa e quindi non accedi a una serie di incentivi che la legge ti dà. Poi puoi essere tranquillamente innovativo anche senza essere una startup innovativa, e puoi anche essere una meravigliosa pizzeria di successo con tanta tecnologia, però non sei una startup innovativa. Ecco. Allora, è molto difficile monitorare quante ce ne siano in Italia, perché il tasso di natalità e mortalità è un tasso appunto molto alto. Ma questa è la vera domanda, cioè questo è il vero punto. In questo momento la legge Passera, ve lo ricordate, decreto crescita 2.0, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura della startup innovativa 2 anni fa. Allora, sono infocamere ne ha censite 7.000, che non sono poche, non sono tantissime, però il punto vero è quante di queste stanno in piedi, quante di queste stanno crescendo, perché il difetto delle startup, che è un po' il difetto poi delle PMI e quindi anche del nostro tessuto economico, è quello di restare piccoline. Per cui di sopravvivere. Qualcuno ha usato l'espressione un po'... Le zombie. Zombie, non è elegante, però insomma... Rende l'idea. Startup name invece è... Di qualcosa che sopravvive in maniera un po' inerte, se vuoi, appunto lo spirito che di non inerzia. Riesce fare il salto di qualità. A fare il salto. L'hanno fatto invece questi due startupper, appunto, che abbiamo interpellato questa mattina. Uno ha già qualche anno di storia, non moltissimi, ma un pochino più di esperienza rispetto all'altro, che praticamente sta lanciandosi proprio in questo periodo. Intanto intanto saluto Matteo Achilli, romano, vive a Milano, è fondatore di Egomnia, una startup che al momento ha più di 700.000 utenti, ha superato i 1.200 clienti. Matteo, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Intanto operi in un settore molto delicato, per il quale ovviamente non possiamo altro che darti atto del tuo impegno, cerchi di mettere a confronto la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro. Come, in che modo nuovo ti sei inventato? Egomnia dà un punteggio alle persone, quindi il target, gli utenti che hanno popolato la piattaforma sono principalmente giovani di talento e questo sta aiutando moltissimo le imprese perché ricevono i risultati della ricerca delle risorse ordinati dal punteggio più alto al punteggio più basso. È un sistema molto meritocratico ma fondamentale soprattutto per le aziende molto grandi che ricevono decine di migliaia di curricula ogni anno. Certo. Matteo, tu per avviare la tua attività, adesso a prescindere dalla domanda di rito, come ti è venuta questa idea? Io vorrei invece capire come l'hai sviluppata, chi ti ha aiutato, perché adesso affronteremo il mondo anche dei cosiddetti incubatori di startup e acceleratori di startup. Tu come sei stato sostenuto anche nella stesura della tua idea di impresa, perché comunque un minimo di piccolo piano industriale è necessario, andare a caccia di finanziamenti se sono necessari. Come hai fatto? Allora, io ho lanciato Egomnia nel 2012. In quel periodo, quando ho iniziato a lavorare ad Egomnia, ancora non era entrato nel lessico comune la parola startup. Quindi io stavo iniziando a fare startup senza sapere di... Volevi fare l'imprenditore, praticamente. Volevo fare l'imprenditore. Era quella che stavo facendo, per me era una piccola impresa. E mi sono vissuto praticamente tutto il periodo della nascita e della crescita dell'ecosistema delle startup e per fortuna sono riuscito a sfruttare, visto che in quel momento non c'era proprio un ecosistema, quello che l'Italia, la caratteristica che l'Italia ha, cioè siamo un popolo di risparmiatori. Ho chiesto un piccolo investimento alla mia famiglia, famiglia normale, che con un po' di sacrificio è riuscito a darmelo. Sì. E ho investito i primi 10.000 euro per realizzare il capitale sociale dell'azienda. Sì. Grazie a Matteo, quindi si può fare anche con un capitale sociale minimo, questo è proprio lo spirito di base anche dell'avvio di attività di una startup. Adesso ve ne racconteremo un'altra di storia, abbiamo la pubblicità, sentiamo se è pronta perché Paolo mi fa gli scherzi in regia. Il prossimo ospite che saluto, adesso spero anche di dire correttamente il suo nome, è Julian Sciarca. Julian, ho detto correttamente? Sì, perfetto, buongiorno. Grazie, perché Julian è albanese, però sta facendo partire una startup che ha anche delle caratteristiche molto particolari, con un team tutto italiano. In molti lo hanno già ribattezzato, sì, lui che potrebbe essere il Mark Zuckerberg italiano. Adesso capiremo anche perché, addirittura, insomma, viene lanciato. Speriamo che tutte queste aspettative poi possa dare una risposta. A tra pochissimo. Ma cos'è quest'estate? Allora, ieri quando mi è stato proposto di intervistare Julian Sciarca, il creatore di Crystal, la nuova startup che peraltro ha assunto questo team italiano, una ventina di persone che per un business nel settore digitale, mi suggeriva poco fa, microfoni spenti, Luca Tremolade, già qualcosa già di per sé innovativo e importante, in realtà la sua è una startup che potrebbe essere candidata a popolare il mondo delle startup unicorn, quelle che raggiungono... Luca, ci spieghi il requisito? Miliardo di dollari di valutazione, c'è Uber per intenderci. Esatto. Julian, hai una bella responsabilità sulle spalle. Intanto partiamo un po' da quello che state facendo adesso, da che cosa siete pronti a partire. Ho fatto un po' fatica a capire la natura del vostro business. Mi spieghi che cosa farà Crystal? Sì, diciamo che siamo molto proiettati verso il futuro. Crystal è il primo assistente virtuale per il marketing online. Virtuale per il marketing online. Esattamente. In pratica tutti oggi utilizziamo Siri piuttosto che l'assistente virtuale di Google per ottimizzare la nostra esperienza con il dispositivo e di conseguenza con i nostri dati personali. Questo ci rende più efficienti, più veloci e permette a noi di fare molte più cose nell'arco della giornata. Il problema con il marketing online ad oggi è che praticamente la gestione dei dati e dei cosiddetti big data, perché purtroppo essendoci tanti canali non è più possibile poter gestire tutti questi canali con la stessa efficienza, per cui o ci si concentra su uno o gestire tutti i canali diventa difficile, per cui si rischia di perdere delle opportunità di business e di crescita molto importanti. Quello che facciamo con Crystal è sfruttiamo praticamente l'intelligenza artificiale, il grande potere dell'intelligenza artificiale e tecnologie come il Natural Language Processing per aiutare le piccole e medie imprese principalmente ad accedere ai propri dati in tempo reale, in modo che possano prendere decisioni migliori e in qualche modo influenzare quello che può essere il processo di una campagna di marketing online piuttosto che una campagna di lancio di prodotto. Siamo andati, Julian, tanto a caccia di potenziali candidati a diventare i Mark Zuckerberg italiani, molti hanno detto che potresti essere tu. Come ti senti con questa carica di responsabilità sulle spalle? Sei pronto a lanciarti in un'operazione di questo tipo? Ti è stimolante per te oppure non hai questa velleità? Assolutamente, uno dei miei primi obiettivi, nel senso che la visione dell'azienda, oltre a quella di creare diciamo dei prodotti molto innovativi sulla quale siamo tutti uniti e in pratica siamo riusciti a realizzare una prima versione di Crystal dopo solo 6 mesi lavorativi, e questo è stato un grandissimo obiettivo poiché la piattaforma è molto complessa, a parte gli algoritmi di intelligenza artificiale che abbiamo creato in casa e gli algoritmi di Natural Language Processing. Stiamo parlando di una piattaforma che andrà a supportare principalmente tutti i canali social media e Google Analytics, che è il principale tool per l'analisi dei dati dei siti web. Per cui siamo già proiettati verso una roadmap che ci permetterà praticamente di lanciare più prodotti innovativi nel giro di pochi anni e ci permetterà praticamente di raggiungere un mercato internazionale che ad oggi è un potenziale mercato di 50 milioni di piccole e medie imprese. E quindi insomma ecco, ci sono i presupposti perché Julian possa essere il Mark Zuckerberg della situazione. Luca, che cos'è un incubatore di impresa, un acceleratore di startup? Che cosa sono queste due figure? Sono i professionisti delle startup, cioè quelli che li allevano, le aiutano a crescere, le massaggiano, gli insegnano com'è il mondo, gli fanno, adesso l'ho messo un po' così, però insomma sono i professionisti che si occupano di, sono due fasi. L'acceleratore è di portare una startup sul mercato, per cui la startup è bella che è nata, mentre l'incubatore è proprio come la gallina che ha l'uovo sotto, cioè partono dall'idea, per cui prendono i ragazzi, li ascoltano, gli fanno, insegnano a fare un PDF, a raccontare meglio l'idea e diciamo a crescere e a svilupparla, per cui sono degli attori che esistono in tutto il mondo e sono fondamentali per il mondo delle startup. In Italia la cosa divertente, l'abbiamo scritto anche sul Sole 24, ce ne sono un sacco, incubatori, andrebbe razionalizzato prima il mondo degli incubatori, degli acceleratori, che poi... Ma razionalizzato è una parola brutta, però insomma è un dato di fatto che in Italia ci abbiamo cioè se dividiamo il numero di startup per soggetti che si occupano di incubare e tutto, insomma siamo tra i più alti in Europa. Sentiamo se è d'accordo il nostro prossimo ospite, Luigi Capella, amministratore delegato di El Venture Group, fondatore di Luis Enlabs, l'acceleratore di startup che è nato 3 anni fa da una joint venture fra El Venture Group e la LUIS, l'Università appunto di Roma, di cui abbiamo parlato poco fa, ieri visitata con grande clamore da Mark Zuckerberg. Capello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Allora, quante startup state incubando in questo momento e quante ne state accelerando? Esatto, allora noi propriamente detto siamo, come è stato ben espresso, siamo un acceleratore, perché noi selezioniamo startup da tutta Europa, le ospitiamo da noi, abbiamo un programma di mentorship e in 5 mesi le nostre startup riescono a fatturare. Ovviamente noi mettiamo dei soldi nelle varie società. Ah, ecco. Per cui ecco, c'è una selezione durissima. Sì. È il venture, quindi sarà venture capital. Da qui il nome evidentemente del gruppo, no? Venture. Esattamente. Ecco. Sì. Esattamente. Ecco. Però per dire che di acceleratori, per cui se vogliamo fare distinguere il mercato tra incubatori, dove in Italia siamo pieni, di acceleratori, dove in Italia, se l'acceleratore lo intendiamo come virtuale o meno, ossia non è necessario un posto fisico, però dove ti danno soldi, ti danno assistenza, ti aiutano come mentorship ad andare sul mercato, di questi programmi strutturati in Italia non ne ho più di 5, non ne conto. tutti gli altri sono altra roba. Ecco, per cui bisognerebbe anche fare poi un'analisi molto, come dire, molto approfondita. Noi siamo i competitor di Y Combinator, ovvero dei leader mondiali in questo settore qua. Certo. Capello, ecco, quali sono le storie più belle che siete stati in grado di esprimere con la vostra attività? Le startup che avete accelerato e che in 5 mesi, ci diceva lei, appunto, siete in grado di far mettere, di far andare sul mercato, di far fatturare, appunto, le storie più belle che avete raccontato di recente? Ma allora, noi in portafoglio ne abbiamo 41, circa 30 sono state quelle che vengono dai nostri programmi, dalla nostra filiera, il programma di accelerazione, e le altre da fuori. Allora qui, come dire, io sono come la mamma dei gracchi, no? Un po' difficile fare, come dire, le selezioni. Però, insomma, come la gallina che cova le uova di cui parlavamo poco fa. Perfetto, perfetto. Perché è veramente difficile dire uno è più bello, eccetera, certo, eccetera. Però sicuramente ci sono dei risultati, insomma, ci sono delle notorietà. Ecco, per cui se vogliamo, non so, una diciamo recente, molto interessante, è Tutor, che è una sicuramente dei principali portali per studenti universitari, oggi copre, diciamo, in Italia oltre 500.000 studenti, in Germania eccetera eccetera, è una società che sta sviluppandosi molto molto velocemente. Un'altra che posso ricordare, per esempio, è KPI6, che fa dati analitici, per cui previsionali, di Facebook, LinkedIn e quant'altro. Queste sono società. Ma si esprimono tutte nel campo digitale, Capello? C'è qualcosa anche di concreto, di altro tipo, in un tessuto imprenditoriale, industriale italiano che è fatto largamente di manifattura? Abbiamo una speranza anche per quel settore? Sicuramente. Allora, noi, per quanto riguarda noi, abbiamo oggi i primi approcci che sono, non so, da queste tecnologie ne abbiamo una che si chiama Filo, che è un piccolo device che permette, se questo device è attaccato alle chiavi, di rintracciare le chiavi, ed è il primi, diciamo, sono, diciamo, le prime parti dell'Internet of Things, per cui dell'Internet delle cose. Allora, un paese manifatturiero come l'Italia sicuramente deve prendere questa parte digitale e portarla nel mondo, come dire, produttivo. Però bisogna partire un po' dal digitale. Ecco. Il problema nostro è una sottocultura impressionante. Ecco, allora quello che dobbiamo fare è sicuramente oggi la grande opportunità, secondo me, come investitore, è quella di investire in queste startup digitali. Poi piano piano le porteremo, con l'aiuto anche ovviamente dell'industria, le porteremo sempre più a contatto. Certo. Chi aiuta oggi, Luca? Lascio concludere a te questo nostro spazio che meriterebbe veramente di grande approfondimento, ma già Enrico Pagliarini con 2024 lo fa spesso e volentieri, quindi noi oggi abbiamo aggiunto delle note di colore grazie alla visita di Mark Zuckerberg a Roma. Chi aiuta oggi questi start-upper italiani oltre agli incubatori e agli acceleratori d'impresa? Hanno denaro pubblico? No, sì, nel senso che ci sono dei bandi di concorso, dei bandi regionali a cui possono accedere, ma diciamo che non è la fonte principale per... E poi bisogna anche domandarsi se sia il caso che lo Stato finanzi le start-up, cioè, secondo te, no, esatto. Non so neanche. Io sarei per il mercato, deve aiutare. Quindi direi che chi aiuta le start-up oggi è il venture capital, per cui il capitale di rischio, che hanno chiaramente non un interesse filantropo, investono perché poi intendono rivendere negli anni successivi, certo, e fare dei profitti. Allora, Mark Zuckerberg d'Italia, mettetevi al lavoro, abbiamo tanto bisogno di voi e quindi, insomma, aspettiamo solo che esprimiate al meglio la vostra creatività. Grazie a tutti i nostri ospiti di questa mattina, Silvi Boccaletti e Massimiliano Lolis in assistenza, in redazione. Per quello che riguarda l'assistenza alla regia c'è Paolo Corleoni. Io torno invece domani mattina pronta intorno alle 8:10, 8:15 da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti.